questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. L'abuso d'ufficio è falso in relazione alla nomina di Renato Marra, fratello di quel Raffaele Marra che poi per altre vicende. Scusi Marco Lillo, non avevo presentato, pensavo, non lo vedevo prima collegato, ma c'è Daniele Bellasio del Sole 24 Ore, eccolo, benvenuto Daniele. Grazie. Scusami, non ti vedevo nell'inquadratura, non sapevo se eri arrivato. Il peggio dello scoop vale doppio. Prego Marco Lillo. E dunque si dimenticano di lui anche in televisione. Come anche? Era lì, poverino, piccolo e nero come Calimero, che ieri Carosella ha compiuto gli anni. Sì. Era lì da che solo cattiveria. E diceva: ma non mi presentano, cioè, non mi salutano, si sono dimenticati di me. Non mandi. I radioascoltatori penseranno che sono una macchietta, non mandi mai video. No, seri. Sei stato l'altra bravo. Volta dicevo no. Questa volta. Scusa, l'altra volta Alessandra hai fatto una bella Sardoni. Rissa in TV, sì. E mi hai dato una bella soddisfazione. Sì. Ma mi ha proprio arrabbiato. Governatore, no, arrabbiato, no. Mi aveva dato del troll e quindi, ma acqua passata. Ecco, acqua passata. Invece stavolta si è dimenticata. Ciao, ma Alessandra Sardoni. Salutiamo. Non si è dimenticata. Ha voluto fare una presentazione ancora più shock, ancora più dire, ecco. D'impatto. Cioè, che ero lì. Tu sei stato bravo, eh? Fa le doppio. Bravo, vale però, doppio. Stato bravo. Mezzo. Ma chi l'ha preso? Chi è colpevole? Cristian Goldoni in regia. No, pensavo, mi pareva che alle 7:30, 8 della mattina tu fossi lì a seguire mattina, la politica. No, quello figurati, no. Figurati, no, chiaramente aspira a essere uno dei possibili candidati alla segreteria del Partito Democratico. Lei ha l'ambizione di diventare l'anti-Renzi, non usi le trivelle, dice Bellasio. Dico, ma non rispondiamo ai troll. Andiamo al cuore della questione. I troll. Allora, guardi, seguite l'esempio, guardi, del Presidente della Repubblica. Se lei considera così belle espressioni di leader parlare di sinistra. Lei è un troll, allora, guardi, l'hanno capito tutti. Beh, fantastico, poi no, si mette a fare no. Posso dire una cosa una volta per vantarmi? La cronaca politica di questi giorni, visto che questo è un video di un anno fa, mi pare che stia dando un po' ragione alla mia previsione analitica, caro governatore Emiliano, che salutiamo, molto simpatico e pop. Che ma bello, basta ci parlare ci di noi, parliamo, andiamo oltre, non sì. Parliamo di politica? Questa settimana, no, ma come fai questa settimana a non parlare di politica? Ti dico già che io per alcune cose la difendo, però anch'io ovviamente, la difendo per alcune ovviamente cose. Ovviamente è la settimana di Virginia, sentite. Sentiamo. No, è stato un interrogatorio molto, molto tranquillo, ho risposto a tutte le domande e ho chiarito la mia posizione. Lei sapeva di questa polizza assicurativa di cui era beneficiaria? No, assolutamente no, l'ho appreso questa sera, sono sconvolta. Ragazzi, è una storia ma che ha fatto di male Roma? Roma, che ha fatto di male nella sua precedente vita, peraltro lunghissima, sì. per meritarsi anni di non governo. Siamo 7 mesi che parliamo solo di nomine, solo di... Vabbè, io questa storia non l'ho ancora capita. No, l'unica cosa che non mi è piaciuta, io ho visto le foto della povera Raggi in pigiama che faceva le faccende di ma casa. Ma sono cavoli suoi, ma fuori la vita stare. Privata e le chat private, ma dai, dalla ci ma sono dai. Cioè, già abbastanza per criticare il sindaco per altre ragioni, la giunta, quella politica, fatti, ok, però la vita privata, compreso il pigiama. Compreso forse, il pigiama, ma poverina, ma saranno affaracci suoi. Se fotografassero me col mio pigiama, sul balcone mio pigiama di Hello Kitty. Sì, con le renne. Secondo me tu hai quel con le renne del film con Hugh Grant, a sai Natale che aveva. Sì, sì, sì, quello con... ne abbiamo parlato ampiamente. Noi vorremmo una gallery sulla tua rubrica sul sito sì, del Sole 24 sì. Ore, quella video. Ah, che guarda, si chiama Pop Style e stanno arrivando un sacco grande. Di video su Sanremo delle cose, ma veramente. Lo so, io sono felice anche perché sono tutti click per il sito del Sole. Ma a parte questo, cosa dobbiamo dire? Che se no la politica diventa come l'isola dei famosi. E ricomincia. Ma la scioltezza. Sai che, ti posso dire una cosa? Ho incontrato la Marcuzzi. E che cosa hai provato? Ecco, diciamo, Ma niente, allora all'Isola dei Famosi è in forma strepitosa, ma è una cosa pazzesca, c'ha delle gambe, ma è atleta, poi è atleta, no? Guarda, è la Marcuzzi atleta. Non si può proprio dire niente. Sai, quelli che dicono sì, ma le gambe un po' magre, no. Sì, ma non ha le gambe dritte. Tra l'altro, no, ragazzi, su Instagram ogni tanto mette mentre fa yoga, è molto allora, atletica. Ve lo dico da donna, è ve pazzesca. Lo dico da uomo, è pazzesca, fidatevi, non ce n'è. Non vabbè, è che comunque non ce n'è. All'Isola dei Famosi che cosa è successo? Hanno già litigato. Ma poi è successa anche una cosa un po' pericolosa, ho letto di sfuggita Bettarini. Eh sì, povero Bettarini è stato punto da questi insettacci che ci sono lì in luogo, insomma è una cosa un po' preoccupante. Ma dai, sentiamo le sono liti, tutte brutte, liti. No? Quest'anno all'Isola dei Famosi vabbè, proprio dai. Si sbizzarriscono certi siti di informazione. Ma anche dagli uomini c'è qualcosa da guardare, eccole qua. Siamo fradici, cioè siamo coperti ma siamo bagnati fradici. È una puntata per salutarvi, per far vedere anche che state bene, perché è vero che state sotto la pioggia da due giorni, ragazzi, ma l'isola è anche questa. Adesso vi faremo arrivare un kit di sopravvivenza e ricordatevi che in Italia ci sono persone che stanno soffrendo molto molto di più. State comunque facendo un gioco, quindi non cominciamo la polemica. Allora, posto che vabbè, le persone che stanno soffrendo, vabbè, io forse non avrei detto, però, cioè, siete all'Isola dei Famosi, ma siete andati apposta, ma che ti lamenti dopo, comunque io tifo un solo po' di fatica per Giulio faranno. Base, perché il nostro amico Giulio Base deve vincere, io tifo ma solo dicono Ceccherini, Giulio Base. No? Dicono che è molto ma favorito. Ma Ceccherini sta dando del... Beh, me lo posso immaginare, non ho ancora visto molto, ma me lo posso immaginare. No, anche io ho visto troppo poco, perché io so già un po' la mente un po' a Sanremo, insomma sono successe cose molto divertenti questa settimana. A proposito di Sanremo, che cosa vuoi sapere di Sanremo? No, perché tu mi avevi fatto notare il video, quel video bellissimo. Certo, allora la scorsa settimana noi abbiamo abbiamo parlato di un video, io non lo so, è un video meraviglioso, di una tristezza ma di una poesia, di un concentrato d'amore vero che di una forza incredibile, veramente, il significato dell'amore, la coppia che purtroppo ha perso la vita nella tragedia dell'hotel Rigopiano, la coppia di parrucchieri, questi signori con quest'aria bellissima, questo sorriso, non lo so, io li guardavo nelle foto e già pensavo di percepire dal loro aspetto. Sembrava di essere lì. Sì, anche. Sì, poi così quest'area di brave persone, sorridenti. Il video in cui loro due cantavano quella canzone di Arisa. E c'erano i figli dietro che facevano il gesto del cuore. Una scena di una famiglia bellissima. E loro l'hanno postato dopo. Sì, l'hanno postato dopo. E per una volta, allora l'abbiamo detto, io odio quando ci sono dei fatti di cronaca e vengono fatte le fotogallerie rubando le foto dai profili di Facebook, una cosa bruttissima. Invece qui sono stati i figli a chiedere ricordateli così. Loro due cantavano una canzone di Arisa, una canzone bellissima, e Arisa secondo me ha fatto una cosa bella. Me l'hai mandata mentre accadeva la cosa. Sì, te l'ho mandata proprio proprio doveva esserci, ed è giusto. Sì, l'ho te l'ho mandata subito, perché veramente mi sono emozionata, perché Arisa ha fatto una cosa davvero davvero davvero bella. Dai cieli è la posizione delle stelle, è anche quello in cui credi, sai, a volte cambia bene, ma c'è qualcosa che resta sempre acceso. È andata al funerale di questi due signori senza farsi riconoscere, così, cappello, sciarpa, senza, così si è messa in un angolino e poi ha cantato loro questa canzone che loro amavano molto, e secondo me è stata una cosa veramente bella, che fa capire quanto Rosalba, cioè Arisa, sia una bella persona con insomma una grande sensibilità. Sì. E credo che sia bello ricordare ancora a loro, abbracciare così i figli, che veramente, io non so, è una cosa che forse un domani riusciranno a vedere come una cosa persino molto così ricca significativa d'amore. E poi vita. C'è la musica, bello del legame della musica, tra l'altro era cantata benissimo la canzone in macchina. Sì, loro erano tanto bravi, era cantata belli. Benissimo. Daniele, allora, una brevissima pausa e poi abbiamo dei temi molto seri, molto importanti, ma anche molto divertenti, perché sorrideremo anche. Molto rete, c'è molta rete. E poi canteremo anche, perché tra poco è Sanremo, tra poco. Deborah, ci sei? Sì, ma ho un dolorino un po' qua dietro al collo. Perfetto, cadi a fagiolo, tempismo, magnifico perché a febbraio Cuore Denari è il mese delle articolazioni. Il professor Carlo Selmi, che è responsabile di reumatologia e immunologia clinica a Humanitas, ma anche docente all'Università degli Studi di Milano, ti rimetterà sicuramente a posto e soprattutto ci farà capire se ti lamenti di gamba buona. Mi sento già meglio, però mi è rimasto un po' di bruciorino di stomaco. Ma Deborah, dai, ce le hai tutte tu. Dai, ascolta Cuore Denari, ogni mese un consiglio per investire in salute. YouTube. Cosa ha fatto Gianni Morandi? Ma no, ho postato buono. Una foto di lui che raccoglie le fragole. E quindi? Adesso glielo faccio vedere io. Ma perché? Pezzo di no, ma non bravo scrive, Gianni, non scrive vantati niente. Pure. Ma e chi è allergico alle fragole, non ci pensi? Ma com'è? Non è colpa sua, non e chi non ha le dita per raccoglierle? Ma con fanco nel mondo deve sapere. Con chi ce l'ha, scusi? Guardi di qua. Con un consigliere comunale di Asti. Mamma una merda, uno schifo. Perché? Ha messo una foto di lui che dona il sangue. È facile donare il sangue per un politico. Cosa c'è? Io, che sono un cittadino comune, quando dono il sangue non lo sbandiera ai 420. Vabbè, ma che, lei è andato a donare il sangue? Stavo per andare a donare il sangue. Ah. Solo che la lobby del Big Pharma mi ha messo il prelievo alle 8 del mattino. Napalm 51, quanto mi piaceva. Maurizio Crozza, che noi aspettiamo perché sta per tornare. L'abbiamo incontrato prima con Christian. 3 marzo torna Maurizio Crozza sulla 9. Hai detto là? La 9 là. O il 9? Abbiamo scelto Discovery per la 9. Spot l'abbiamo mandato in onda la scorsa puntata di Radio YouTube. Bellissimo. Il 9, la 9. Non lo so. Ci sono anche le pubblicità in giro. Non vedo l'ora. Questa settimana io ho litigato. Sulla rete? Ma ho litigato, no. Ma quante volte ho litigato? Sai perché ho litigato? No. Per colpa di Carlo Conti. Perché? Boicottiamo il Festival di Sanremo. Perché Carlo Conti guadagna troppo. No. Spegniamo la TV. Diamo i soldi. Vabbè. No, io dicevo, ma non è esattamente così. Non può funzionare così. E più e cercavo lui ha detto, di spiegare. È una battaglia populista. No, lui ha anche detto una cosa che a me ha toccato molto. Lui ha detto, sono molto deluso perché è stato un attacco personale, peraltro su una base non vera. Ma più cercavo di dire, guardate che non stanno esattamente così le cose, più aumenta. È il problema di Napalm. Esatto, infatti il personaggio Napalm di Crozza è azzeccato perché ha individuato il classico haters, l'odiatore, non so se l'ho detto come lo diresti perfect, tu, perfect. Però allora in rete si dice o si pensa c'è come uno sviluppo eccessivo delle parole sbagliate, soprattutto delle parole senza stile, uno sviluppo eccessivo della maleducazione, della cattiveria, della ferocia nelle critiche, fino ad arrivare alle minacce, agli insulti e quanto di peggio si può dire. A questo proposito è stato pensato, è stato organizzato una 2 giorni a Trieste, dove io vado, perché poi è una città bellissima. So che ti piace molto Trieste. Il 17-18 febbraio, ha un nome bellissimo, parole o _ stili, trovate in rete tutto, e questa iniziativa vuole provare a raccogliere non delle regole, perché le regole, insomma, un fenomeno come la rete, mettere delle regole è difficile, però come un decalogo, manifesto su come cercare di trovare delle parole che abbiano lo stile e non siano stili in rete. Ne sento molto il bisogno. Allora, per parlare di questo fenomeno, ma per parlare del concetto proprio di parola in rete, di parola e stile, abbiamo un ospite al telefono. Lo presento io, faccio il presentatore io. Allora, abbiamo una linguista, una persona che cura la strategia e la presenza digitale dell'Accademia della Crusca. Quindi in rete. Quindi abbiamo un'esperta petalosa. Cioè, esatto. Se ci pensi, è proprio la massima autorità nel massimo caos della rete. Vera sì. Gheno è con noi al telefono? Sì, eccomi qua, buonasera. Rideva perché ho detto petalosa, perché petaloso è stato un momento, secondo me, per voi di delirio in quei giorni. Poi come è arrivata è andata l'ondata del petaloso. Beh, è rimasta anche un po'. Però per qualche giorno non si parlava d'altro. Però mi pare molto molto importante, urgente. Ma veramente, chi frequenta molto la rete ha sentito in questo periodo un po', adesso faccio il discorso d'anziana, un peggiorare dei toni e un po' il desiderio di rimettere un pochino le parole a posto. Sì. È così, Vera? Allora, questo è sicuramente un desiderio sacrosanto, però io più che per la mia esperienza in Crusca, che da questo punto di vista rimane secondaria, Posso offrire la mia esperienza di più o meno 20 anni di frequenza, di frequentazione dei social network, insomma, da quando ancora non si chiamavano così. Io ho un po' concentrato tutta la mia carriera di linguista, per così dire, proprio su questo, cioè sulle interazioni online. E, io ho una teoria a proposito, proprio forse per la mia anzianità in rete. Non è che sia peggiorata in toto la qualità delle conversazioni online, è che sono aumentate così tanto di volume che si nota di più anche l'aspetto, per così dire, meno educato. Cosa voglio dire con questo? Quando eravamo pochi e selezionati, diciamo, nel far west della rete, in qualche modo non c'erano queste dinamiche di massa che invece abbiamo oggi. Giusto ieri guardavo i nuovi dati sulla presenza social degli italiani e siamo a 31 milioni che frequentano i social network, quindi diciamo la metà abbondante degli italiani si intrattiene rapporti sui social network. Questo secondo me inevitabilmente provoca che tendiamo a ricreare online le stesse dinamiche che abbiamo nell'offline, e quindi dal mio punto di vista i problemi che noi abbiamo sui social, che riscontriamo sui social anche dal punto di vista, appunto, delle parole ostili, le loro radici vanno ricercate non nell'online ma in qualcos'altro, cioè per esempio in delle carenze educative, comportamentali e anche come dire, di capacità di interazione interpersonale che ci sono invece nella vita 1.0. Però nella vita 2.0 il fatto che il meccanismo di massa ottenga risultati, diciamolo anche di audience, molto forti, tende a sua volta, certo, ad alimentare come dire, la maleducazione oppure l'errore nel linguaggio, l'utilizzo dei toni sbagliati anche fuori. Quindi sembra, visto così, un gatto che si morde la coda. Sì, un po' un circolo vizioso. Esatto. Allora, sì, e dunque, prima di tutto va tenuto conto detto effetto disinibente della rete, cioè non ci vediamo in faccia e ci permettiamo quindi una virulenza anche nel linguaggio che, se noi avessimo davanti la persona che vogliamo insultare, non riusciremmo ad avere, insomma. Ecco, una cosa è insultare una persona dietro uno schermo, una cosa è vederla in faccia mentre la insulti. Io ho avuto proprio la doppia esperienza, cioè di persone che, non conoscendomi personalmente, mi hanno scritto le peggio cose sia in pubblico sia in privato, e poi quando per caso le ho incontrate, per esempio a un convegno, a una serata in biblioteca, così improvvisamente erano tutte mansuete. Quindi, certo, un gran classico. Credo che anche voi, come personaggi, per così dire, dei mezzi di comunicazione di massa, possiate avere avuto qualche sentore, ecco, di questa differenza comportamentale, e questa è sicuramente una delle questioni. E l'altra, oddio, è una questione assolutamente complessa, però io penso che io sono un po' della scuola di Tullio De Mauro da questo punto di vista. Tullio De Mauro diceva sempre che il problema non era tanto linguistico, anche quando si parlava per esempio dell'impoverimento dell'italiano, no? Della morte del congiuntivo e queste cose. Lui diceva sempre: il problema non è l'italiano, sono gli italiani. E con questo sì, intendeva dire che effettivamente purtroppo anche le indagini Istat lo fanno vedere molto chiaramente. C'è stato un peggioramento della qualità media della cultura, del cosiddetto italiano medio, se vogliamo chiamarlo così. E se una persona non ha tantissima cultura, non ha nemmeno la capacità di discutere delle questioni in maniera tranquilla. Cioè, la prima reazione che uno ha quando sente qualcuno che ha un'idea diversa dalla propria, se uno non affina le capacità argomentative, è quella di arrabbiarsi. Secondo me noi raramente andiamo in rete con l'idea di cambiare idea, no? Certo, cioè andiamo certo, in rete anzi con un'idea, esatto, con un'idea già ben definita, e quando incontriamo qualcuno che è fuori dalla nostra, diciamo, dal nostro salottino, che quindi magari la pensa diversamente, dobbiamo in realtà fare uno sforzo molto grosso, no? Per aprirci alla possibilità che l'idea dell'altro non sia completamente sbagliata. Ecco, questo è un procedimento niente affatto banale, insomma. Da cosa bisogna ricominciare, visto che comunque, appunto, la fotografia ai noi è questa, ma da cosa vera dovremmo partire, secondo te? Allora, io ho aderito a questo progetto Parole Ostili proprio con questo interrogativo in mente, cioè dove non arrivo io col mio singolo cervello, diciamo così, forse possiamo fare di più facendo il cosiddetto trust di cervelli, no? Quindi mettendo tanti cervelli insieme con specializzazioni diverse, la linguista, il sociologo, il giornalista, l'esperto di comunicazione e così via, forse riusciamo a tirar fuori qualcosa, perché diciamo che la mia prima idea o sensazione o tentazione sarebbe quella di dire, come spesso molti dicono, signora mia, dove stiamo andando? Non ci possiamo fare niente, è la decadenza del presente e così via. E io anche con l'idea di contrastare questa, come dire, questa pigrizia interiore, ho detto, beh, proviamo a fare qualcosa. Sì. Parole ostili cercherà di fare qualcosa. Che cosa si può fare? Io nel mio piccolo, per esempio, faccio un'educazione, io la chiamo ecologia della rete o ecologia dei social network. Insegno alcuni di questi principi ai miei studenti, perché faccio lezioni in varie università, sono dei corsi per esempio di italiano scritto e cose del genere, e io ci ho infilato delle lezioni che invece riguardano proprio il comportamento del singolo in rete, quindi per esempio con i miei studenti abbiamo stilato una serie di domande di autocontrollo per far sì che quando uno scrive in rete abbia un pochino più di coscienza di quello che sta facendo, semplicemente perché una delle sensazioni che ho molto spesso quando parlo con le persone è che molti in realtà non abbiano piena coscienza del fatto che stanno scrivendo in pubblico quando scrivono per esempio su Facebook. Il fatto di non rendersene conto provoca tutta una serie di cose a cascata. Io potremmo definirlo l'effetto Tinello, cioè uno parla, scrive su Facebook come parlerebbe nel Tinello di casa propria, solo che la portata, proprio come dicevate voi, è completamente diversa. Però volevo fare un'ultima richiesta pubblica. Vai. Per così dire. Non dobbiamo essere solo noi che andiamo a Trieste a far parte di questo progetto. Certo. È possibile votare sul sito di Parole Ostili, che è www.paroleostili.com, il cosiddetto manifesto, io lo chiamo, non so, una lista dei principi per una migliore interazione online. La votazione è aperta a tutti e quindi fino al 10 febbraio è possibile andare online e votare, quindi nel proprio piccolo partecipare a questo progetto, che mi sembra una cosa carina. Molto, grazie. Grazie Vera. Grazie. Ciao. A voi. Buon lavoro. Sì, e a presto. A presto Trieste. Grazie, ciao. E adesso credo una breve pausa, poi saremo ancora insieme. Comincia ad arrivare un sacco di gente qui in studio, non capisco perché. Ascolto Gianluca perché sono socievole ma non sono social. Perché a Grosseto Radio 24 si sente bene. Perché quando corro vorrei essere un gabbiano. Ascolto Gianluca perché ci devo pensare. Perché mentre rifaccio il letto mi chiedo se anch'io sono tutta da rifare. Ascolto Gianluca perché quando mi lavo i denti penso alla mia vita. Devo mangiare di meno. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Radio Tube. E ritorniamo insieme, lo diciamo Daniele, che ci siamo messi vicini a un microfono solo, sì, per una, sì, volta. Sì, sì, sì. Quindi, no, mica una volta, mica la prima volta. No, non è la prima volta. E io ho già detto che se tu mi parli sopra ti do una culata e ti sbatto in un angolo. E mi sgridano anche dalla regia, peraltro affollatissima. L'ospite che abbiamo, lo so, l'ospite che abbiamo richiama. Cioè, ma manco per Rovazzi, allora, c'era tutta sta gente. No, assolutamente. Ma no. Non lo so io. Peraltro Rovazzi poi voleva, no, insomma, il collega di Rovazzi voleva il selfie con Giannino. Sì, era, è vero, tutto, sì, invertito, sì, vabbè. Bellissima ragazza, tra l'altro, Eleonora, ciao Eleonora. E Giannino mi diceva, ciao. Ma dice sul serio? Ma davvero vuole fare un selfie con me? Certo, ha fatto, esatto, un selfie con Oscar Giannino. Allora Marta, tu devi sapere ordine. Che l'ordine mondiale è stato scombussolato dall'arrivo di una cosa pazzesca che è confronto Trump e nulla. Anche l'ordine delle nostre vite private, anche il galateo, è stato rivoluzionato da una cosa che si... Non, ho paura a dirlo perché io stesso... Apri il tuo cuore, dimmi. Allora, la chat di WhatsApp della classe dei figli. Cioè, è una cosa... Io non invidio chi ha più di un figlio, perché vuol dire... Ecco, esatto, in regia. Perché vuol dire due chat di classe di due figli di me. Ora, tu devi sapere che è È proprio contro i diritti umani, dovrebbe essere fermata come cosa. Sono usciti articoli ovunque, dopo ne parliamo, ma è stato fatto anche un video che e voi trovate, forse ce sì, forse ce l'abbiamo, trovate in rete, non sappiamo nulla di questo video se non che se voi mettete chat di classe delirio lo trovate subito, ascolta. Ciao mamme, ho aperto questo gruppo per aggiornarvi sulle iniziative della scuola. Vi chiederei cortesemente di inserire nel gruppo le mamme di cui non ho il numero. Grazie, ciao. Va bene a tutte se alle maestre regaliamo dei fiori? No, la mamma di Matilda ha proposto un bracciale. Beh, allora possiamo regalare entrambi. Beh, certo, regaliamole anche un Rolex allora. Cosa vorresti dire allora? Il tuo sarcasmo non è divertente. Penso stesse scherzando. Anche a me non starebbe bene. Ma l'idea di regalare un bracciale penso sia un'idea carina. Ma poi decidete voi, eh. Ah, io non voglio responsabilità. Oddio, 300 notifiche. Scusate, ma se ne parlassimo a voce non sarebbe meglio? Intendeva dire che ti aspetta fuori da scuola per farti un gran culo. Allora, questo video, che è WhatsApp di classe il delirio, vedo che è stato postato da Gin Giorgina, 40.000 visualizzazioni, quindi evidentemente è una cosa vera. Io l'unico video di bambini che mi piaceva era quello dei bambini in Siberia. Ma che non gli danno fatto... delle belle secchiate di ghiaccio, così dovete educarli. Secchiate di ghiaccio nudi a meno 20 e poi via nell'acqua calda, si temprano. Guarda che qui non è colpa dei bambini, è colpa dei genitori. Ma non certo. È che nella chat, i bambini nelle chat dicono... Ben altro, comunque il video della Siberia non l'abbiamo, questo no, l'abbiamo detto, ma l'ho risparmiato. Esatto. Vi mercate in Siberia usano questi metodi. Sì, cresciamo. Vai, bene. Conduci tu che sei capace. Allora, perché abbiamo detto che c'è un ospite con l'apostrofo che ha chiamato c'è tutto l'ufficio. Ma spegni sto telefonino. È la chat di classe. Ma non ci posso credere, Allora, perché ha mobilitato tutto l'ufficio stampa del Sole 24 Ore. È una bravissima collega del Sole 24 Ore che ha scritto proprio di che questo cura argomento. Un blog che ha anche avuto questo tema all'ordine del giorno. Vai. Allora, il blog si intitola... Adesso le chiediamo anche perché. Sì. Perché non... A me non lo so io. Sarà perché non ho figlio o perché non gioco a pallacanestro. Alley Oop... Lei è Monica D'Ascenzo, ciao Monica. Ciao. Che peraltro si occupa di finanza, certo, un tema molto non semplice, solo di chat, no? Di classe. Ecco, no, questo per dire. Allora, intanto no, parlami del blog, perché so che compie c'è anche un compleanno, quindi spieghiamo come. Sì, il 15 di febbraio è il primo compleanno di Alley Oop, che è un blog multifirma del Sole 24 Ore dedicato alla diversity, quindi si occupa anche di mamme, donne, papà, soprattutto dei nuovi papà e della genitorialità in generale. E ci siamo occupati anche dei gruppi di WhatsApp, purtroppo. Tu che rapporto hai con i gruppi di WhatsApp? Altalenante. Bella. Cerco di non uscire perché credo che... No, non fa bello, eh. Non fa bello per niente. Alla fine forse possono essere utili. Però stiamo elaborando un decalogo dei gruppi WhatsApp perché è ormai assolutamente necessario. Stanno veramente degenerando in una maniera che non ci si poteva immaginare. Tanto che oggi abbiamo pubblicato un post in cui si dice che le rappresentanti di classe ormai devono avere le competenze da digital manager e da community manager, perché altrimenti non se ne esce. Oh, ragazzi, allora, ci sono stati presidi che hanno suggerito di vietarle, classi dove non si... allora, diciamo, l'utilità classica è... Rocco ha dimenticato il quaderno o la pagina, scusate, potreste fare una foto della pagina? Tu quindi hai la foto, puoi studiare, rimediare. Posso non essere d'accordo? Vai. Perché io contesto proprio questo, l'utilità non è quella, no. L'utilità oh. È oh, spiegate c'è lo perché. Sciopero, ricordiamo che c'è lo sciopero, c'è l'assemblea di classe, ricordiamo che c'è l'assemblea di classe. Se il figlio dimentica il libro a scuola, il giorno dopo deve andare senza aver studiato, va dall'insegnante, si prende la nota e così impara. Perché Siberia. Nella già vita più Siberia, già modello Siberia più. Ma nella vita non ci sarà sempre il genitore che si fa passare i compiti da un altro allora, genitore. Allora però tu con questa critica giusta che Marta sottoscrive come dire alludi a un altro tema. Le chat di classe in realtà spesso sono due. Quella, cioè, quella con la siberiana. Maestra, no, esatto. Quella con la maestra che tendenzialmente si occupa appunto, domani c'è lo sciopero, la mensa, portate c'è la gita, quindi al sacco. E quella senza le maestre. Il problema è quando tu sbagli e scrivi "Perché la maestra, ha fatto quella cosa lì gravissima. No, beh, adesso questo non mi permette. Ma nessuno. Ci sono anche le chat senza moglie e senza mariti. Sì, quelle sono delle altre. Cioè, ah, tu dici se mettono entrambi i genitori. No, no, quelle che poi fanno le cose che si mettono d'accordo senza le moglie. Perché tu senza pensi mariti? Che si vada a scuola secondo per questo? Secondo me sì. Noi abbiamo il papà di Alle Yup che imbarazzato cerca di limitare la sua chat di classe perché è frequentata soprattutto dalle mamme. Che dopo una certa ora, la sera, si passano delle fotografie. No! No! Sì! E in questo momento Bellasio dice, papà imbarazzato cerca di dire, forse... Ci sono anche io. Esatto, alza la mano e dice... Ma si passano fotografie di uomini? Di uomini. Di uomini. No. Le ho viste. Perché fai parte di quella? No, perché il papà è venuto imbarazzato e mi ha detto, cosa devo fare? E tu hai detto, mi fai iscrivere anche me. Ma lui com'era il papà? Esterno. Esatto. Ma com'era il papà? Niente. Imbarazzato, ok, va bene. Una chat, ma sono d'accordo per le comunicazioni come se fosse, dici, un diario, una bacheca scolastica. Sì. Domani il... Di servizio, sì, di informazione servizio. Di servizio. Quella con le maestre. E quindi perché tu poi quando vanno in gita, vanno in gita serve, no? No, è assolutamente utile. La mia soluzione quando mio figlio era alla scuola materna, al dilagare di messaggi che non avevano nulla a che fare con l'organizzazione della scuola, ho proposto in modo probabilmente anche antipatico da parte, cioè come è stato recepito da alcuni, di fare due chat. Diciamo quella seria e quella, scusate la parola, del cazzeggio. Se vuole soltanto le informazioni serie sta su una e altrimenti va sull'altra. Sono sensibile al tema, quindi poi c'è sempre una che passa per essere la stronza. Sì. Eccola. Io per esempio un giorno, pensando di metterla un po' a ridere, no? Siccome i messaggi erano 300, ho fatto una collezione degli articoli usciti sul Sole, sul Corriere, sul Fatto, sul Corriere. L'altro giorno c'era un pezzo, sono uscito dalle chat di classe, sono felice. E quindi ho fatto una serie di link e li ho messi nella chat di classe. Non ha più scritto nessuno per 3 giorni. Scherzavo, dico no, perché era un modo per dire, vabbè, cioè... Hai gelato gli entusiasmi sì, di tutti. Ho gelato, però mi dispiace. Tra l'altro è anche un lavoro gestirla, che ci sono delle persone, è quello che dicevi tu prima. Infatti nel nostro articolo si sottolinea che le competenze digitali che deve avere una rappresentante di classe ormai sono molte, dall'aprire il gruppo WhatsApp, da fare da coaching a chi non è in grado di gestirlo, da creare comunicazioni ripetute nel tempo, non so come è andata l'assemblea di classe e così via, dal gestire per esempio le fotografie, perché negli eventi dove i genitori non sono previsti sono previste le fotografie nei gruppi. Allo stesso tempo deve fare da community manager, perché non deve dare adito a polemiche, deve placare argomenti che sono fuori luogo e deve cercare di gestire gli umori un po' di tutti. Quindi la nostra proposta era di inserire in LinkedIn la competenza rappresentante di classe. Gestore della chat di WhatsApp. Un'altra cosa per cui è utile, se posso dire, è quando ci sono dei problemi in classe che gli insegnanti non riescono a gestire in velocità nel rapporto con i genitori. Cioè, ovviamente il problema della privacy, del non dire quale è, però a volte aiuta per dire, non so, c'è stata la lite XY, il bambino che ha avuto un problema, ha perso la cosa, magari si creano quelle tensioni che non è che i professori riescono a stare appresso a tutte le riunioni, all'assemblea, a incontrarli. In quel caso lì un po' funziona, no? Si risolve il problema, se non parte una lite, ecco. In quei casi il problema è la deriva che può prendere, perché ormai le chat di classe servono anche per fare dei processi alle insegnanti, ed è questo che contestava per esempio il pre che tu prima hai citato, oppure di fare dei processi a dei singoli bambini. In questo modo chiaramente non si crea un clima positivo poi per il lavoro degli insegnanti in classe. Giusto. Ma si possono dare degli orari per la... Brava! Uno dice dopo le 21:30 si silenzia il gruppo. Allora, questo fa parte del decalogo e lo inseriremo, perché a me è capitato di ricevere un messaggio alle 4 di mattina. In quel periodo, fra l'altro, avevo mio padre che non stava bene, quindi chiaramente sono andata subito a vedere che cos'era successo. La mattina dopo mi sono tolta dalla chat giustificando il fatto che ne uscivo. Giusto, mi pare ovvio. Peraltro alle 4 anche un messaggio normale, anche fuori dalle chat. Alle 4, vabbè, allora. I bambini quanto devono sapere, entrare, non devono avere nulla a che vedere? Io faccio le domande proprio da osservatrice esterna, giusto, non ne so nulla. Cioè devono sapere che i genitori comunicano in tempo reale? Cioè, non, anche oppure deve essere un mondo a loro completamente esterno? Allora, secondo me deve essere un mondo a loro esterno. Io ho scritto di questo e devo dire che era stato lettissimo il pezzo che avevo scritto ed era contro appunto i gruppi WhatsApp, ma anche contro il registro elettronico, nel senso che secondo me c'è un'invasione di campo dei genitori nella vita scolastica dei bambini. La scuola è dei figli, non è dei Brava. Genitori, quindi noi dobbiamo rispettare i loro spazi e dobbiamo cercare di non invaderli, perché altrimenti non li rendiamo responsabili della vita che stanno vivendo. Quindi secondo me i cubetti di ghiaccio della Siberia prima per i genitori. Prima per i genitori. No, comunque è molto giusta la cosa che dicevi prima, perché se poi i genitori tendono a coalizzarsi anche grazie a questi strumenti, l'autorità e il ruolo del maestro diventa veramente più difficile, perché insomma la rete è uno sfogatoio, le chat spesso lo diventano, quindi quello che dicevi prima è molto giusto. Insomma. Infatti gli insegnanti si trovano proprio in difficoltà per questi attacchi. Mi piace molto. Daniele, salutiamo Monica, ricordiamo il compleanno quasi 15 dopo San Valentino, dopo Sanremo, l'altro santo che piace a me. Grazie a Monica D'Ascenzo, torna a trovarci. Ciao Monica. Ciao. Grazie. E adesso cos'è il traffico? Traffico tra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta YouTube. Ogni giorno che abbiamo perso forse non ritornerà, ma è mezzo. Daniele, questa è la canzone che ha vinto Sanremo l'anno scorso. Come? Allora, no. Non hanno vinto gli stadio. Sì, l'anno scorso Sanremo è stato vinto dagli stadio. Sì, io però, ti favo per gli stadio. Sì, però. Ti piace, infatti sei stato contento l'anno scorso. Sì, della chissà mia generazione. Quest'anno ti piacerà, chissà quest'anno. Non lo so, non ci sono i cantanti. No, c'è Paola Turci, abbiamo detto. C'è Paola Turci, già c'è Fiorella Paola Mannoia. Turci. No, team Paola Turci. È bella, bella, bella. Vabbè, da martedì ma le sentiremo tutte. Ma tu ti sbilanci, tutte. Però quanto c'è? No, Rocco Hunt non c'è, c'è Clementino che però ti piace. Mi anche piaceva. Clementino. Io sì. Allora, perché dico che Rocco Hunt ha vinto Sanremo? Non lo dico io, però prima dell'inizio di Sanremo, YouTube e Google hanno dato un po' i dati dell'anno passato. Esatto, dell'anno passato con un bilancio sui 12 mesi, insomma. Quindi... E vabbè, è facile per Rocco Hunt perché c'hai giovani che vanno c'hai su giovani, YouTube. Esatto. Secondo YouTube, allora il vincitore è Rocco Hunt, seconda Francesca Michielin, terzo Clementino, quindi insomma. Ma ovviamente tutti giovani, no? Poi quarto Alessio Bernabei, quinto Lorenzo Fragola, poi gli stadio, che comunque sesti su però. YouTube, comunque ecco, mi sembra buono. Patti Pravo, quanto è Patti Pravo. Patti Pravo. Vabbè, fatto che poi all'ottavo posto gli Zero Assoluto, che invece erano stati eliminati. Quindi beh, questo Vendetta, capita. Mara Vendetta. Vendetta. Ovviamente Arisa, Guardando il Cielo, e Giovanni Caccamo e Deborah Jurato, Via da qui. Questa era la... Debbie Jurato sulla rete ha proprio le frotte di fare. Sì, sì, sì. Invece cosa hanno cercato gli italiani in questo periodo su Google? Allora... Prima, questa è bella, prima ricerca su Google è quando inizia il festival? Beh, mi sembra giusto. Ma scusa. Prima in assoluta o legata a Sanremo? No, legata a Sanremo. Ah, ecco, è, no, vabbè, legata a Sanremo se... è quando inizia? Mi pare giusto, no? Vabbè, ma lo sanno per l'uso. Quando inizia perché ogni tanto parte di lunedì, ogni tanto sì, di martedì. Esatto. Quest'anno parte di? Martedì, diciamo, martedì. Seconda è quando Mari... finisce? No, Marika Pellegrinelli. Non ne ho la minima idea. Sarà una carina. Sarà una Urca, carina. Se la googli. Sarà una carina. Non è una carina. È una donna meravigliosa che è la moglie di Eros Ramazzotti. Siamo al top, come e dice che quindi, il poeta. E che quindi insomma si vuole capire è che cosa. Sì. Ah. Sì. No, non è su Piazza. È la moglie no, di Ramazzotti. Non so neanche chi è, figura. Però dopo che la googli ti viene. Dopo Google. Ma quindi? Poi Robbie Williams, Keanu Reeves, che Robbie sono gli, Williams, gli ospiti. Al quinto posto. Maria De Filippi senza compenso. Cioè? Allora è tutti vogliono sapere se è vero che Maria De Filippi va gratis senza compenso. Già abbiamo parlato della polemica Carlo Conti. Del povero Carlo Conti, che poverino, cioè perché prende troppo, una cifra che peraltro non era neanche vera, cioè vabbè, lasciamo tipico, perdere. Tipico della rete. E invece Maria De Filippi perché non si lavora gratis. Ah, quindi c'è napalm al contrario. Esatto. Ma allora, poveri. Però hanno fatto una cosa bellissima. Chi? Allora, Carlo Conti e Maria De Filippi hanno fatto lo spot, il sì. primo spot, con Maria De Filippi che canta. E cantano Trottolino. No, che tristezza. Non l'hai sentito? Ma non, mi ma non allora posso pensare che sia vero. Te lo mostro io alla radio. Non l'hanno fatto. Eccolo qua. Maria, lo sai, tutti cantano Sanremo. Hanno cantato le mamme in stato interessante, gli extraterrestri, gli animali. Adesso tocca a noi, dai. Non pensarci nemmeno proprio, E allora ti chiamerò. No, magari chiamo io. Trottolino amoroso. Dudu, da da da. E questo sarebbe cantare? Dudu, da da da. Lasciamo perdere, va. Dudu, da da da. Da. Forse non canterà. Forse non è il Beh, suo. Beh, anche da. Lui non è che proprio. Ma infatti il mio commento era tutti quasi, a dire quasi meglio lei. Esatto, come canta Maria. Carlo. Esatto, perché lei nel suo non cantare era più intonata. Sì, perché quindi sì. Sto trottolino amoroso si capiva infatti, dalle parole, non dalla musica. Ma infatti non deve cantare, quindi... Però allora sarà il trionfo di Maria? Vabbè, sì, senz'altro, sarà il trionfo dei conduttori. I conduttori hanno già vinto, esatto, questo sarà... è sicuro, però dopo Maria festival pure. Ha già trionfato questa settimana. Beh, ma questa settimana è successo una... questa la so, questa oh, la dai, so. Dai, raccontaci, raccontaci. Ma a parte che è una cosa che giornalisticamente tutti si dice giornalisticamente, che parolaccia, vabbè. È un po' come quando dico immaginario e parlando. Esatto, come... No, cioè, l'intervista veramente che tutti vorrebbero fare... è quella che nessuno può fare perché se la possono fare solo tra di loro, loro. Tra moglie e marito non mettere l'intervista. No, però loro sono riusciti a fare questa intervista perché Maurizio Costanzo ha intervistato Maria De Filippi. Uno non ci può credere perché da un certo punto di vista è il massimo della cosa che non si può fare, dall'altro punto di vista è il massimo della cosa che uno vorrebbe vedere. Allora, vediamo come inizia. Mostriamo alla radio come è iniziata. Io lancerò dei filmati che la riguardano. Ma purtroppo anche lei lancerà dei filmati che mi riguardano e quindi che posso dirvi? Non so come dire, se è la puntata zero di un programma che si farà nel 3000. Però devo dire, la puntata zero e uno già ci spera e poi però ti congela perché c'è nel 3000, diciamo, non è che proprio sì, si può fare domani. Però secondo me, poi noi che siamo cresciuti con le sitcom di Ovidio Orazio, ti ricordi quando Costanzo faceva i film? Io sono più cresciuto col Maurizio Costanzo Show, cioè per me era questa cosa l'abbiamo già raccontata. Le cassette VHS. Esatto, che abbiamo detto che lo facevamo tutte e due, ovviamente vent'anni prima di anche più di vent'anni prima di conoscerci, registrare il Maurizio Costanzo Show la sera, perché andavamo a scuola, nelle medie, al liceo. C'era VHS, che i ragazzi che di oggi nessuno sa più cos'è, però c'erano. E poi tornati da scuola il giorno dopo a guardare il Maurizio Costanzo Show. Io adoravo tantissimo, l'ho già detto, l'uno contro tutti, era proprio qua, dove Costanzo dava il meglio perché doveva condurre con la gente in sala al Teatro Parioli. Mi ricordo abbiamo mandato Carmelo Bene Sgarbi, ne facevo tipo 4 all'anno di uno contro tutti, poi i politi, ma comunque no, Maurizio Costanzo Show. Ma piacevano invece gli ospiti che tornavano, tipo il leggendario Nick 900, quell'attore tenero, carino, tanto carino. Ma scusami, ma poi la cosa bella era che se uno prendesse la televisione degli anni successivi al Maurizio Costanzo Show, praticamente noi non ce lo ricordiamo più, ma vengono quasi tutti, erano lì. Giachetti che faceva le poesie bonsai. Sai una cosa che mi è piaciuta? Braccardi che suonava. Sì. Cosa? La cosa che mi è piaciuta è che in tanti dicono sì, vabbè, sì, sono ancora sposati, però sai quelli che fanno boh, però tutti. Boh. Perché c'è la tendenza a non credere mai alle relazioni tra personaggi pubblici. Dopo sono in sempre... generale le relazioni, la gente dice questi sempre sono sì, tutti però... come te, cinici, mamma mia. Ma e invece Christian, mostraci un altro frammento di questa intervista. Hai rotto questi filmati? Lo so, mi sono commosso pure io, non so te. Perché veramente... Tocca a me. Vabbè. Fammi la domanda. Sì, perché a me non me le fai le domande? Che cos'è, Gabriele? È una cosa bella. In la senso canzone specifica. È un ragazzo intelligente, è un ragazzo per bene, è onesto, è pulito. Tieni conto che questi complimenti lui li sente adesso per la prima volta, perché io non sono, tu lo sai? No, non sei prodiga di complimenti. Beh, io ci credo, perché lei sembra una donna un po' così, insomma, non è che proprio tutti i giorni sta lì a coccolare, a dire lusinghe, complimenti. Però se guarda lì quando si sono tutte e due tanto commossi. No, poi tra l'altro questo tipo di trasmissione, Costanzo è stato bravissimo a creare una specie di atomo di emozioni che continuano a esplodere dentro questa intervista. Con i video la cosa è resa ancora più evidente, per certi versi più facile. Se poi metti due persone che hanno in comune anche l'emozione, già si crea la comunione nell'intervista, così esplode tutto. Vabbè, cioè, dai, concludiamo con Sanremo, perché ci stiamo commuovendo anche con noi. Sanremo. Allora, ma secondo te chi vince? Maria De Filippi è la regina delle discussioni legate, sì, a Sanremo, citata oltre 25.000 volte in questo periodo, dice Reputation Manager. Chi sono i top nella social dei campioni? Allora, la più seguita è Lodovica Comello, brava, 6 milioni di, sì, seguaci. Brava. Al secondo posto Clementino, 1.200.000, quasi 2 milioni. Al terzo posto Gigi D'Alessio, al quarto Fiorella Mannoia, al quinto Michele Bravi. Ma secondo te, sì, non ti chiedo chi vince, perché non puoi, no, devi perché fare la cronista. No, ma poi quest'anno è difficilissimo, sul serio. Però ti chiedo, vince, è più probabile che vinca un uomo, una donna o una band? No, allora, una band è impossibile perché non ce n'è. Non ci sono band? Non ci sono band. Neanche un duo? Devo dirti che la super favorita è Fiorella Mannoia, il rischio è che chi entra papa, eccetera, eccetera, eccetera. Però tu mi hai detto che ci sono anche, cioè, per esempio, ho visto che anche Gigi D'Alessio è molto... Gigi D'Alessio è un pezzo che può funzionare, però rischia di essere un po' sfavorito dalle giurie, non lo so. Perché e è troppo famoso, perché non essere troppi famosi poi dopo... I giovani, a me, Elodie e Sergio Silvestre, allora io so già a memoria il pezzo di Elodie, non te lo posso cantare, è l'unico che so già perché si attacca. E Paola Turci com'è? Bello... Ma è tipo, guarda, nel mio è tipo cuore, si può è dire tipo... niente, dobbiamo salutare, non si può dire tanto. Mi piace regolamento. Tanto anche Marco Masini, tutti no. Allora prossima settimana, non oggi, così questi stanno tutti i nostri radioascoltatori su Radio 24 fino alla prossima settimana, quando ci potrei dire quella che non ti non piace. Mi è piaciuta. Allora ringraziamo Cristian Goldoni, super, che come sempre ci aiuta e ci consente di portare a termine Radio Tube. Questa settimana in regia con noi c'era Carmelo Lauricella. Magico. Noi ci ritroviamo il prossimo sabato. Io sarò a Sanremo. Ciao.